Benvenuta nella mia stanza, tra le mie pareti bianche. Io è qui che ti ho aspettata per ore, giorni, settimane. Benvenuta dove io vivo e dove faremo l'amore. Ci troverai un po' di vino e un po' di fumo e ci troverai il mio cuore. Benvenuta nella mia stanza, dentro a queste quattro mura. Ti puoi togliere le scarpe, fallo senza paura. E se userai le mie ciabatte, non riuscirai a scapparmi via. E se ti provi i miei anfibi, ti farò una fotografia. Sia la benvenuta in questo spazio piccolino, dove passa il tempo anche se non sembra, e arriva sempre il mattino. Io è qui che mi risveglio e l'ho fatto quasi sempre da solo. Nel mio letto tipo tenda canadese, le mie memorie del sottosuolo. Benvenuta nella mia stanza, nel mio mondo polveroso. I miei Sartre ed i miei Lenin, io è qui che mi riposo. I miei sogni dentro ai libri, che forse un giorno leggerai. Benvenuta nella mia stanza, amore, non te ne pentirai. Sia la benvenuta tra le mie pareti bianche. Io è qui che ti ho aspettata per ore, giorni, settimane. Benvenuta dove io vivo e dove faremo. Un po' di vino e un po' di fumo e ci troverai il mio cuore.